Martin Cunningham, per primo, infilò la testa incilindrata nella carrozza scricchiolante e, entrando agilmente, prese posto. Mr. Power entrò dopo di lui, incurvando la sua altezza con attenzione. «Vieni, Simon!» «Dopo di lei!» disse Mr. Bloom. Mr. Dedalus si coprì rapidamente e salì dicendo: «Sì, ci siamo tutti ora?» chiese Martin Cunningham. «Venga, Bloom!» Mr. Bloom entrò e si sedette nel posto vuoto. Si tirò dietro lo sportello e lo sbatté finché non fu ben chiuso. Passò un braccio attraverso il lacciolo e guardò serio dal finestrino aperto gli avvolgibili abbassati del viale. Uno era scostato, una vecchia che sbirciava, naso bianco schiacciato contro il vetro. Ringrazia la sua buona stella che non era ancora venuto il suo turno. Straordinario l'interesse che hanno per un cadavere. Felici di vederci partire. Diamo loro tanta pena nell'arrivare. Un compito che si addice loro, borbottio negli angoli. Ciabattano in giro, in ciabatte felpate, per paura che si svegli. E poi lo preparano, gli fanno la toletta. Molly e Mrs. Fleming rifanno il letto. Tiralo un po' più dalla tua parte, il nostro sudario. Non saprai mai chi ti toccherà morto. Lavaggio e shampoo. Credo che taglino unghie e capelli, serbarne un po' in una busta. Crescono lo stesso dopo. Lavoro immondo. Tutti aspettavano, non una parola. Caricano le corone, probabilmente. Sono seduto su qualcosa di duro. Oh, il sapone nella tasca di dietro. Meglio levarlo di lì. Aspetta il momento buono. Tutti aspettavano. Poi si sentì il rumore delle ruote in testa al corteo. Svoltavano. Poi più vicino. Poi gli zoccoli dei cavalli. Un sobbalzo. La loro carrozza cominciò a muoversi, scricchiolando ed ondolando. Altri zoccoli e ruote scricchiolanti si misero in moto dietro. Gli avvolgibili del viale presero a sfilare e il numero 9 col suo batocchio brunato, la porta accostata, a passo d'uomo. Aspettarono ancora, con le ginocchia ballonzolanti, finché non ebbero svoltato e non passarono lungo i binari del tram. Tritonville Road, più svelti, le ruote rombavano, rotolando sull'acciottolato e i vetri sconnessi vibravano fragorosamente negli sportelli. «Per che strada ci porta?» chiese Mr. Power da entrambi i finestrini. «Irish Town», disse Martin Cunningham. «Ringsend, Brunswick Street». Mr. Dedalus annuì, guardando fuori. «È una bella usanza antica», disse. «Son contento di vedere che non è ancora morta del tutto». Tutti guardarono per un po' attraverso i finestrini, berretti e cappelli alzati di passanti. «Rispetto». La carrozza scartò dalla linea tranviaria, passando alla carreggiata più liscia oltre Watery Lane. Mr. Bloom, tutt'occhi, vide un giovanotto snello, vestito a lutto, un ampio cappello. «È passato un suo amico, Dedalus», disse. «Chi è?» «L'erede Rampollo». «Dov'è?» disse Mr. Dedalus, sporgendosi in avanti di traverso. La carrozza, passando oltre i tombini aperti e cumuli di massicciata sconvolta davanti alle case popolari, si inclinò alla curva e, tornando con uno scarto sulla linea tranviaria, seguitò a rotolare fragorosa con ruote chiacchierine. Mr. Dedalus si lasciò ricadere indietro, dicendo: «C'era quel mascalzone di Mulligan con lui? Il suo Fidus Achates?» «No», disse Mr. Bloom, «era solo». «È da sua zia Sally, ci scommetto», disse Mr. Dedalus. «La banda dei Golding, quell'ubriacone di Contabiluccio e Crissy, la zolletta di sterco di papà suo, la figlia saggia che conosce suo padre». Mr. Bloom sorrise senza allegria a Ringsend Road. «Fratelli Wallace, la fabbrica di bottiglie, Ponte Dodder, Richie Golding e la sua borsa d'avvocato, Golding, Collis e Ward. Chiama la ditta. Le sue battute sanno un po' di muffa. Era un gran bel tipo. A ballare il valzer in Steimer Street con Ignatius Gala era una domenica mattina, con due cappelli della padrona di casa puntati in testa, fuori a far baldoria tutta la notte. Ora comincia a sentirne le conseguenze. Quel suo mal di schiena, temo. La moglie gliela stira la schiena. Crede di guarire con le pillole. Sono tutta molleca di pane. Ci guadagnano il 600%. «Sei imbrancato con dei tipacci», ringhiò Mr. Dedalus. «Quel Mulligan è un fottuto farabutto pestifero incallito, da quel che si dice. In tutto Dublino il suo nome è come la peste, ma con l'aiuto di Dio e della sua santa madre, uno di questi giorni mi darò la pena di scrivere una lettera a sua madre o sua zia, o all'accidente che sia, che le farà spalancare tanto d'occhi come un portone. Gli titillerò la catastrofe, parola mia. Urlò per coprire lo strepito delle ruote. Non permetterò che quel bastardo di suo nipote mi rovini il figlio. Lui, figlio di un commessucolo, vendeva fettucce da mio cugino, Peter Paul Mazzuini. Gli piacerebbe. Smise. Mr. Bloom spostò lo sguardo dai suoi baffi racondi al volto mite di Mr. Power e agli occhi e alla barba, col suo grave tremito, di Martin Cunningham. Uomo caparbio, rumoroso, pieno di suo figlio. Ha ragione. Qualcosa da lasciare in retaggio. Se il piccolo Rudy fosse vissuto, vederlo crescere, sentirne la voce in casa, a passeggio accanto a Molly con la divisa di Ethan, mio figlio, me nei suoi occhi, strana sensazione sarebbe, uscito da me, un mero caso. Deve essere stato quella mattina a Raymond Terrace, che lei era alla finestra a guardare i due cani che se la facevano sotto il muro della gattabuia e la guardia che sogghignava. Indossava quella vestaglia color crema con uno sdrucio che non ha mai rammendato. Dammi una sgrufolatina, Poldi. Dio, muoio dalla voglia. Così comincia la vita. Poi mise la pancia. Dovette rinunciare al concerto di Greystones. Mio figlio dentro di lei. Avrei potuto aiutarlo nella vita. Avrei potuto renderlo indipendente. Imparare il tedesco anche. Siamo in ritardo? Chiese Mr. Power. 10 minuti, disse Martin Cunningham guardando l'orologio. Molly, Millie, stessa cosa diluita. Le sue imprecazioni da monellaccio. Oh, Giove giulivo! Oh, dei pesciolini! Però è una cara bambina. Tra poco una donna. Mullingar. Carissimo papalino. Studentello. Sì, donna anche lei. Vita, vita. La carrozza sbandò a destra e a sinistra, i loro quattro corpi ondeggianti. Corny ci avrebbe potuto dare una carretta più confortevole, disse Mr. Power. Certo, disse Mr. Dedalus, se non avesse quell'occhio strabico, mi capite? Chiuse l'occhio sinistro. Martin Cunningham si mise a spazzar via briciole di pane da sotto le cosce. Cos'è? Disse. In nome di Dio, briciole. Pare che qualcuno abbia fatto merenda qua dentro non molto tempo fa, disse Mr. Power. Tutti sollevarono le cosce e adocchiarono con disgusto il cuoio muffoso e senza bottoni dei sedili. Mr. Dedalus, torcendo il naso, abbassò gli occhi accipigliato e disse: A meno che io non mi sbagli di grosso. Che ne pensi, Martin? Mi ha dato la stessa idea, disse Martin Cunningham. Mr. Bloom riabbassò la coscia. Fortuna che ho fatto il bagno. Mi sento i piedi puliti. Se Mrs. Fleming avesse rammendato meglio queste calze. Mr. Dedalus sospirò rassegnato. Dopotutto, disse, è la cosa più naturale del mondo. Tom Cannon si è fatto vivo? Chiese Martin Cunningham, attorcigliandosi delicatamente la punta della barba. Sì, rispose Mr. Bloom. È dietro con Ned Lambert e Heinz. E Corny Keller? Chiese Mr. Power. Al cimitero, disse Martin Cunningham. Stamattina ho visto McCoy, disse Mr. Bloom. Ha detto che avrebbe cercato di venire. La carrozza si fermò bruscamente. Che è successo? Ci siamo fermati? Dove siamo? Mr. Bloom mise la testa fuori dal finestrino. Il Canal Grande, disse. Gasometri. Guarisce la tosse asinina, dicono. Fortuna che Millie non l'ha mai avuta. Poveri bambini. Li fa piegare in due, neri e lividi dalle convulsioni. È una vergogna, davvero. Se l'è cavata relativamente bene con le malattie. Solo il morbillo. Tisana di seme di lino. Scarlattina. Epidemia d'influenza. A caccia di voti per la morte. Non perdete questa occasione. Ospizio dei cani laggiù. Povero vecchio Athos. Sii buono con Athos, Leopold. È il mio ultimo desiderio. Sia fatta la tua volontà. Li obbediamo nella tomba. Uno scarabocchio in punto di morte. Se l'è preso a cuore. Ci si è tormentato. Animale tranquillo. I cani dei vecchi di solito lo sono. Una goccia di pioggia gli si spiaccicò sul cappello. Si tirò indietro e per un istante vide le gocce dell'acquazzone improvviso punteggiare le lastre grigie della strada, l'una separata dall'altra. Curioso, come attraverso un colino. Era da immaginarselo, le scarpe mi scricchiolavano, ora rammento. Il tempo cambia, disse piano. Peccato non si sia mantenuto al bello, disse Martin Cunningham. Ci voleva per la campagna, disse Mr. Power. Ecco il sole che fa capolino un'altra volta. Mr. Dedalus, sbirciando il sole velato attraverso gli occhiali, lanciò al cielo una sorda imprecazione. È incerto come un deretano di bambino, disse. Ecco che si riparte. La carrozza rimise in movimento le ruote artritiche e i loro corpi ondeggiarono dolcemente. Martin Cunningham prese ad attorcigliarsi più velocemente la punta della barba. Tom Kernan era formidabile ieri sera, disse, e Paddy Leonard che gli faceva il verso sotto il naso. Fallo un po', Martin, disse Mr. Power con entusiasmo. Aspetta di sentire Simon come parla di Ben Dollard che canta The Croppy Boy. Formidabile, disse pomposamente Martin Cunningham. Il suo modo di cantare quella semplice ballata, Martin, è l'interpretazione più penetrante che io abbia mai sentito durante il corso della mia lunga esperienza. Penetrante, disse ridendo Mr. Power. Lui ci si riempie la bocca con quella parola e l'inquadratura retrospettiva. Avete letto il discorso di Dan Dawson? Chiese Martin Cunningham. Io no, disse Mr. Dedalus. Dov'è? Sul giornale di oggi. Mr. Bloom tirò fuori il giornale dalla tasca interna. Quel libro che devo cambiare per lei. No, no, disse subito Mr. Dedalus. Più tardi, grazie. Lo sguardo di Mr. Bloom scorse nella colonna marginale del giornale, scrutando gli annunci mortuari. Callan, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Noma, Peake. Qual è dei Peake? Quello che era da Crosby e Allen? No, Sexton, Albright, caratteri di inchiostro presto sbiaditi sulla carta sgualcita che si lacera. Grazie al piccolo fiore. Crudele perdita, con inesprimibile dolore dei suoi, all'età di 88 anni dopo lunga e penosa malattia. Trigesimo, Quinlan, della sua anima abbia misericordia Gesù. È già un mese da quando il caro Harry si involò verso la celeste sede e la famiglia in lutto la sua perdita piange, sperando un giorno riabbracciarlo in cielo. Ho strappato la busta. Sì. Dove ho messo la sua lettera dopo che l'ho letta nel bagno? Si batté con la mano sulla tasca del panciotto. Sì, è là. Il caro Harry si involò. Altrimenti perdo la pazienza. Scuole comunali. Segheria Meade. Il posteggio delle carrozze. Solo due ce n'è ora. Testa ciondoloni. Pieni come porci. Troppe ossa nel cranio. L'altro trotterella in giro con un cliente. Un'ora fa passavo di lì. I fiaccherai si tolsero il cappello. La schiena di un deviatore si raddrizzò a un tratto contro un pilone del tram vicino al finestrino di Bloom. Non potrebbero inventare qualcosa di automatico in modo che la ruota stessa, più pratico? Sì, ma allora quel disgraziato perderebbe il posto? Va bene, ma allora un altro non si prenderebbe un posto fabbricando la nuova invenzione? Ancient Concert Rooms. Non danno niente. Uomo incompleto color nocciola con il lutto al braccio. Non troppo dolore lì. Un quarto di lutto. Parenti acquisiti, forse. Passarono oltre il cupo pulpito di San Marco, sotto il ponte della ferrovia, oltre il Queen's Theatre, in silenzio. Tabelloni. Eugene Stratton. Mrs. Bandvan Palmer. Potrei andare a vedere lì stasera, chissà. Ho detto di sì. Ho il giglio di Killarney. La compagnia d'opera di Elster Grimes. Formidabile cambiamento. Cartelloni lucidi ancora umidi per la prossima settimana. Allegria sul Bristol. Martin Cunningham potrebbe farmi avere un ingresso per il Gaiety. Basterebbe offrirgli un bicchierino o due. Se non è zuppa, è pan bagnato. Viene questo pomeriggio. Le sue romanze. Plasto. Fontana con busto alla memoria di Sir Philip Crampton. Chi era? Salve, disse Martin Cunningham accennando un saluto militare, mano alla fronte. Non ci vede, disse Mr. Power. Ah, sì, salve. Chi? Chiese Mr. Dedalus. Blazes Boylan, disse Mr. Power. Eccolo là che dà aria al ciuffo. Proprio mentre pensavo a lui. Mr. Dedalus si piegò in avanti a salutare. Dalla porta del Red Bank, il disco bianco d'una paglietta balenò in risposta. Figura azzimata. Passato. Mr. Bloom si passò in rivista le unghie della mano sinistra, poi quelle della mano destra. Le unghie, già. C'è in lui qualcosa di più che loro, lei, vedono. Fascino. Il peggiore individuo di Dublino. Vive di questo. A volte sentono quel che un individuo è veramente, istinto, ma un tipo come quello. Le mie unghie, le sto giusto guardando, ben tagliate. E dopo, solo a pensare. Il corpo si sta un po' afflosciando. Me ne accorgo, perché ricordo. Cosa lo provoca? Credo la pelle non può contrarsi abbastanza presto quando la carne cede. Ma la linea c'è ancora. Spalle, anche. Rotondità. Sera del ballo si vestiva, camicia infilata tra le guance deretane. Si strinse le mani tra le ginocchia e soddisfatto lasciò vagare il suo sguardo vuoto sui loro volti. Mr. Power chiese: Come va la tournée dei concerti, Bloom? Oh, benissimo, disse Mr. Bloom. Ne sento dire un gran bene. È una buona idea, vede. Ci va anche lei? Oh no, disse Mr. Bloom. A dire il vero, devo andar giù nella contea di Clare per una faccenda personale. L'idea, vede, sarebbe di toccare i centri principali. Quel che si perde in uno, si recupera in un altro. Giusto, disse Martin Cunningham. Anche Mary Anderson è da quelle parti ora. Avete buoni artisti? Louis Werner è il suo organizzatore, disse Mr. Bloom. Eh sì, avremo il meglio che offre la piazza. Jacy Doyle e John McCormack, spero, e. Quel che c'è di meglio, insomma. E Madame, disse Mr. Power, sorridendo, nominata per ultima, ma non ultima. Mr. Bloom disgiunse le mani in un gesto di cortese protesta e le giunse di nuovo. Smith O'Brien, qualcuno ci ha messo un mazzo di fiori. Donna, deve essere l'anniversario della sua morte. 100 di questi giorni. La carrozza, girando attorno alla statua di Farrell, unì senza rumore le loro ginocchia rilassate. Inge, un vecchio dal vestito stinto, tendeva dal marciapiede la sua merce con la bocca che gli si apriva. Inge, 4 stringhe per un penny! Chissà perché è stato radiato dall'ordine degli avvocati. Aveva l'ufficio a Hume Street, stessa casa dell'omonimo di Molly, Tweedy, procuratore a Waterford. Da allora ha sempre quel tubino, reliquia della dignità di un tempo, in lutto anche, un tracollo terribile, poveraccio, passato di mano in mano come una tabacchiera durante una veglia funebre, o Callaghan con un piede nella fossa. E Madame, 11:20, alzata. C'è Mrs. Fleming per la pulizia. Si fa i capelli canticchiando voglio e non vorrei, no, vorrei e non. Si guarda le punte dei capelli per vedere se sono biforcuti. Mi trema un poco il. Bella su quel tre la sua voce, una nota patetica. Tordo, tordo canoro. Quella parola, canoro, che rendeva bene l'idea. Il suo sguardo esplorò sfiorando il bel volto di Mr. Power, un po' di grigio alle tempie. Madame, sorrideva. Gli ho reso il sorriso. Un sorriso arriva molto lontano. Pura cortesia, forse. Brava persona. Chissà se è vero di quella donna che mantiene. Non è piacevole per la moglie. Pure dice, chi me l'ha detto? Che non c'è nessun rapporto. Si penserebbe che un gioco simile non dovrebbe durare. Sì, è stato Crofton che l'ha incontrato una sera che le portava una libra di braciole. E lei che cos'era? Barista da Jury? Oppure da Moira? Passarono sotto la sagoma intabarrata del liberatore. Martin Cunningham dette di gomito a Mr. Power. Della tribù di Reuben, disse. Un'alta figura nero barbuta, curva su un bastone, svoltando zoppa l'angolo dei magazzini degli elefanti di Elvery, mostrò loro una mano adunca aperta sulla spina dorsale. In tutta la sua pristina bellezza, disse Mr. Power. Mr. Dedalus seguì con gli occhi la figura zoppicante e disse dolcemente: Il diavolo gli spezzi il fil della schiena. Mr. Power, sopraffatto dal gran ridere, nascose il viso dal finestrino mentre la carrozza oltrepassava la statua di Gray. Ci siamo stati tutti da lui, disse chiaro e tondo Martin Cunningham. I suoi occhi incontrarono gli occhi di Mr. Bloom. Si carezzò la barba aggiungendo: «Insomma, quasi tutti». Mr. Bloom cominciò a parlare con improvvisa animazione ai volti dei suoi compagni. «Ce n'è in giro una molto buona a proposito di Reuben Jay e del figlio». «Quella del battelliere?» chiese Mr. Power. «Sì, non è vero che è buona». «Che cos'è?» chiese Mr. Dedalus. «Io non l'ho sentita». «C'era di mezzo una ragazza», cominciò Mr. Bloom, «e lui decise di mandarlo all'isola di Man, lontano dalla tentazione. Ma quando i due furono...» «Cosa?» chiese Mr. Dedalus. «Quell'inveterato sbarbatello fottuto?» «Sì», disse Mr. Bloom. «Erano tutti e due diretti al battello, e lui cercò di affogarsi». «Affogare Barabba!» urlò Mr. Dedalus. «Cristo volesse che ci fosse riuscito!» Mr. Power dette una lunga risata dalle nari riparate. «No!» disse Mr. Bloom. «Il figlio stesso!» Martin Cunningham gli troncò la parola senza complimenti. Reuben Jay e il figlio scendevano giù per le rive lungo il fiume verso il battello dell'isola di Man, e quel sornione d'un giovanotto a un tratto si divincolò e giù nella Liffey scavalcando il muretto. «Per amor di Dio!» esclamò Mr. Dedalus impaurito. «È morto?» «Morto!» esclamò Martin Cunningham. «No, davvero! Un battelliere prese un rampino e lo ripescò per il fondo delle brache, e lui si ritrovò sul molo accanto al padre, più morto che vivo. C'era mezza Dublino a vedere». «Sì», disse Mr. Bloom. «Ma il buffo è che...» «È Reuben Jay», disse Martin Cunningham, «dette al battelliere un fiorino per aver salvato la vita a suo figlio». Un sospiro soffocato venne di sotto la mano di Mr. Power. «Certo», affermò Martin Cunningham, «un atto da eroe, un fiorino d'argento». «Non è vero che è buona», insistette Mr. Bloom. «Uno scellino e 8 pence di troppo», disse seccamente Mr. Dedalus. La risata soffocata di Mr. Power esplose quieta nella carrozza. La colonna di Nelson. 8 susine e 1 penny, 8 per 1 penny. «Dovremmo essere un po' più seri», disse Martin Cunningham. Mr. Dedalus sospirò. «D'altronde», disse, «il povero Paddy non ci lesinerebbe una risata. Ne ha raccontate tante anche lui di buone». «Il signore mi perdoni», disse Mr. Power asciugandosi con le dita gli occhi umidi. «Povero Paddy, non l'avrei mai detto una settimana fa, quando lo vidi per l'ultima volta, e lui stava come al solito, che gli sarei andato dietro in carrozza a questo modo. Ci ha lasciati. La persona più per bene che abbia mai portato cappello», disse Mr. Dedalus. «Se n'è andato dalla sera alla mattina». «Sincope», disse Martin Cunningham. «Il cuore». Si batté tristemente il petto. «Faccia infiammata, rosso fuoco, troppo John Barleycorn, cura per il naso rosso, bere come dannati finché diventa paonazzo». «Ne ha spesi di soldi per dargli quella tinta». Mr. Power guardava sfilare le case con afflitta comprensione. «Ha fatto una morte istantanea, poveraccio», disse. «La morte migliore», disse Mr. Bloom. I loro occhi sbarrati lo fissarono. «Niente sofferenze», disse. «Un momento e tutto è finito. Come morire nel sonno». Nessuno aprì bocca. «Parte morta della strada, questa. Affari magri di giorno. Agenzie immobiliari, albergo senza mescita, orario delle ferrovie Falconer, istituto impiegati statali, GIL, circolo cattolico, istituto dei ciechi. Perché? Ci deve essere una ragione. Sole o vento. La sera, lo stesso. Soldati e servette. Sotto il patronato del compianto padre Matthew. Prima pietra per Parnell. Sincope. Il cuore». Cavalli bianchi con bianchi pennacchi in fronte girarono l'angolo della rotonda. Al galoppo. Una piccola bara passò di sfuggita. Fretta di seppellirlo. Una carrozza da funerale. Celibe. Nero per gli sposati. Pezzato per gli scapoli. Baio per le monache. «È triste», disse Martin Cunningham. «Un bambino». Una faccia da nano, color lilla e tutta rughe, come era quella del piccolo Rudy. Un corpo da nano, molle come mastice, in una cassetta d'abete foderata di bianco. Funerale pagato dalla mutua. Un penny alla settimana per una zolla di terra erbosa. Nostro, piccolo, povero, bambino. Non significava nulla. Errore della natura. Se è sano, prende dalla madre, se no dall'uomo. Miglior fortuna la prossima volta. «Povera creaturina», disse Mr. Dedalus, «se n'è cavato fuori».